Terzo anello ad alta voce. Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Al di là del breve ponte le autorità stavano ad attendere, circondate da qualche decina di contadini. Appena le carrozze entrarono sul ponte, la banda municipale attaccò con foga frenetica «Noi siamo Zingarelle», primo strambo e caro saluto che da qualche anno Donna Fugata porgeva al suo principe. E subito dopo le campane della Chiesa Madre e del convento di Santo Spirito, avvertite da qualche monello in vedetta, riempirono l'aria di baccano festoso. «Grazie a Dio, mi sembra che tutto sia come al solito», pensò il principe scendendo dalla carrozza. Vi erano lì Don Calogero Sedara, il sindaco, con i fianchi stretti da una fascia tricolore nuova fiammante come la sua carica, Monsignor Trottolino, l'arciprete, con il suo faccione arsiccio, Don Ciccio Ginestra, il notaio, che era venuto carico di gala e pennacchi, in qualità di capitano della Guardia Nazionale. Vi era Don Totò Giambono, il medico, e vi era la piccola Nunzia Gerritta, che porse alla principessa uno scomposto mazzo di fiori colti del resto mezz'ora prima nel giardino del palazzo. Vi era Ciccio Tumeo, l'organista del Duomo, il quale, a rigor di termini, non avrebbe avuto rango sufficiente per schierarsi con le autorità, ma che era venuto lo stesso quale amico e compagno di caccia, e che aveva avuto la buona idea di portare con sé, per far piacere al principe, Teresina, la cagna bracca focata con i due segnetti color nocciola al di sopra degli occhi, e che del suo ardire fu ricompensato da un sorriso tutto particolare di Don Fabrizio. Questi era di ottimo umore e sinceramente blando. Era disceso dalla carrozza insieme alla moglie per ringraziare, e sotto l'imperversare della musica di Verdi e del frastuono delle campane abbracciò il sindaco e strinse la mano a tutti gli altri. La folla dei contadini era muta, ma agli occhi immobili traspariva una curiosità non ostile, perché i villici di Donna Fugata non avevano nulla contro il loro tollerante signore, che così spesso dimenticava di esigere i canoni e i piccoli fitti. E poi, avvezzi a vedere il Gattopardo baffuto danzare sulla facciata del palazzo, sul frontone delle chiese, in cima alle fontane, sulle piastrelle maiolicate delle case, erano curiosi di vedere adesso l'autentico Gattopardo, in pantalone di piqué, distribuire a tutti zampate amichevoli e sorridere nel volto di felino cortese. Non c'è da dire, tutto è come prima, meglio di prima, anzi. Anche Tancredi era oggetto di grande curiosità. Tutti lo conoscevano da tempo, ma adesso egli appariva come trasfigurato. Non si vedeva più in lui il giovanotto spregiudicato, ma l'aristocratico liberale, il compagno di Rosolino Pilo, il glorioso ferito dei combattimenti di Palermo. Lui, in quell'ammirazione rumorosa, nuotava come un pesce in acqua. Quei rustici ammiratori erano davvero uno spasso. Parlava loro in dialetto, scherzava, prendeva in giro se stesso e la propria ferita. Ma quando diceva «il generale Garibaldi», calava la voce di un tono e prendeva l'aria assorta di un chierichetto davanti all'ostensorio. E a Don Calogero Sedara, del quale aveva vagamente inteso che si era dato molto da fare nei giorni della liberazione, disse con voce sonora «Di voi, Don Calogero, Crispi mi ha detto un gran bene!» Dopodiché diede il braccio alla cugina Concetta e se ne andò, lasciando tutti in visibilio. Thank you. Le carrozze con i servi, i bambini e Bendicò andarono direttamente al palazzo, ma come voleva un antichissimo uso, gli altri, prima di mettere il piede in casa, dovevano assistere a un tedeum alla chiesa madre. Questa era del resto a due passi e ci si diresse lì in corteo. Polverosi ma imponenti i nuovi arrivati, luccicanti ma umili le autorità. Il Duomo era stipato di gente curiosa, fra le sue tozze colonne di marmo rosso. La famiglia Salina sedette nel coro e durante la breve cerimonia don Fabrizio si esibì alla folla, stupendo. La principessa era sul punto di venir meno per il caldo e la stanchezza e Tancredi, col pretesto di cacciar via le mosche, sfiorò più di una volta il capo biondo di Concetta. Tutto era in ordine. E dopo il fervorino di Monsignor Trottolino tutti si inchinarono dinanzi all'altare, si avviarono verso la porta e uscirono nella piazza abbrutita dal sole. Al basso della scalinata le autorità si congedarono e la principessa, che aveva avuto bisbigliate le disposizioni durante la cerimonia, invitò a pranzo per quella stessa sera il sindaco, l'arciprete e il notaio. L'arciprete era scapolo per professione e il notaio per vocazione, e così la questione delle consorti per essi non poteva porsi. Languidamente l'invito al sindaco venne esteso alla di lui moglie. Era questa una specie di contadina, bellissima, ma giudicata dal marito stesso per più d'un verso impresentabile. Nessuno quindi si sorprese quando egli disse che era indisposta, ma grande fu la meraviglia quando aggiunse: «Se le loro eccellenze lo permettono, verrò con mia figlia, con Angelica, che da un mese non fa che parlare del piacere che avrebbe a essere da loro conosciuta, da grande». Il consenso naturalmente venne dato. E don Fabrizio, che aveva visto Tumeo sogguardare da dietro le spalle degli altri, gli gridò: «E anche voi, si capisce, don Ciccio? E venite con Teresina!» E rivolto agli altri aggiunse: «E dopo pranzo, alle 9:30, saremo felici di vedere tutti gli amici». Donna Fugata commentò a lungo queste ultime parole. Il principe, che aveva trovato il paese immutato, venne invece trovato molto mutato, lui, che mai prima avrebbe adoperato parole tanto cordiali. E da quel momento, invisibile, cominciò il declino del suo prestigio. Il palazzo Salina era attiguo alla chiesa madre. La sua breve facciata con 7 balconi sulla piazza non lasciava supporre la sua smisuratezza, che si estendeva indietro per 200 metri. Erano dei fabbricati di stili differenti, armoniosamente uniti però intorno a 3 vasti cortili e terminanti in un ampio giardino tutto cintato. All'ingresso principale sulla piazza i viaggiatori furono sottoposti a nuove manifestazioni di benvenuto. Don Onofrio Rotolo, l'amministratore locale, non aveva partecipato, non partecipava mai alle accoglienze ufficiali all'ingresso del paese. Educato alla rigidissima scuola della principessa Carolina, egli considerava il vulgus come non esistente ed il principe come residente all'estero, sinché non avesse varcato la soglia del proprio palazzo, e perciò stava lì a 2 passi fuori dal portone, piccolissimo, vecchissimo, barbutissimo, fiancheggiato dalla moglie assai più giovane di lui e poderosa, spalleggiato dai servi e dagli 8 campieri col gattopardo d'oro sul berretto e nelle mani 8 schioppi di non costante innocuità. «Sono felice di dare alle loro eccellenze il benvenuto nella loro casa. Riconsegno il palazzo nello stato preciso in cui è stato lasciato». Finiti i convenevoli con Don Onofrio e Donna Maria, la principessa, che si reggeva ormai soltanto sui nervi, andò di filato a letto. Le ragazze Tancredi corsero verso le calde ombre del giardino. Don Fabrizio e l'amministratore fecero il giro del grande appartamento. Tutto era in perfetto ordine. Ogni cosa era nello stato in cui si trovava da 50 anni. Uscito dal turbine rumoroso dei dissidi civili, don Fabrizio si sentì rinfrancato, pieno di serena sicurezza, e guardò quasi teneramente don Onofrio che gli trotterellava al fianco. «Don Onofrio, voi siete veramente uno di quegli ignomi che custodiscono i tesori. La riconoscenza che vi dobbiamo è grande». Don Onofrio lo guardò grato e sorpreso. «Dovere, eccellenza, dovere». E per nascondere la propria emozione si grattava un orecchio con il lunghissimo unghio del mignolo sinistro. Dopo, l'amministratore venne sottoposto alla tortura del tè. Don Fabrizio se ne fece portare 2 tazze e con la morte nel cuore don Onofrio dovette inghiottirne una. Poi si mise a raccontare le cronache di donna fugata. 2 settimane fa aveva rinnovato l'affitto del feudo Aquila a condizioni un po' peggiori di prima. Aveva dovuto affrontare delle spese per la riparazione dei solai delle foresterie, ma vi erano in cassa, a disposizione di Sua Eccellenza, 3.275 onze, al netto di ogni spesa, tassa e del proprio stipendio. Poi vennero le notizie private che si adunavano attorno al grande fatto dell'annata. La continua rapida ascesa della fortuna di Don Calogero Sedara. 6 mesi fa era scaduto il mutuo concesso al barone Tumino ed egli si era incamerato alla terra, mercè 1.000 onze prestate, possedeva adesso una nuova proprietà che ne rendeva 500 all'anno. In aprile aveva potuto acquistare 2 salme di terreno per un pezzo di pane ed in quella piccola proprietà vi era una cava di pietra ricercatissima che egli si proponeva di sfruttare. Aveva concluso vendite di frumento quanto mai profittevoli nei momenti di disorientamento e di carestia che avevano seguito lo sbarco. La voce di don Onofrio si riempì di rancore. «Ho fatto un conto sulla punta delle dita. Le rendite di don Calogero eguaglieranno fra poco quelle di vostra eccellenza qui a Donna Fugata. E questa in paese è la minore delle sue proprietà. Insieme alla ricchezza cresceva anche la sua influenza politica. Era divenuto il capo dei liberali a Donna Fugata ed anche nei borghi vicini. Quando ci sarebbero state le elezioni era sicuro di essere inviato deputato a Torino. E che aria si danno! Non lui, che è troppo intelligente per farlo, ma sua figlia, per esempio, che è ritornata dal collegio di Firenze e che va in giro per il paese con la sottana rigonfia e i nastri di velluto che le pendono giù dal cappellino. Il principe taceva. La figlia, sì, quell'Angelica che sarebbe venuta a pranzo stasera. Era curioso di rivedere quella pastorella agghindata. Non era vero che nulla era mutato. Don Calogero ricco quanto lui. Ma queste cose, in fondo, erano previste. Erano il prezzo da pagare. Il silenzio del principe turbò Don Nofrio. Immaginava di averlo scontentato narrandogli i pettegolezzi paesani. «Eccellenza, ho pensato di far preparare un bagno. Deve essere pronto adesso». Don Fabrizio si accorse improvvisamente di essere stanco. Erano quasi le 3 ed erano 9 ore che si trovava in giro sotto il sole torrido e dopo quella nottata. Sentiva il suo corpo pieno di polvere fin nelle più remote pieghe. «Grazie, Don Nofrio, di averci pensato». E di tutto il resto. Ci rivedremo questa sera a pranzo. Entrò nello stanzino del bagno, piccolo, imbiancato a calce. Chiamò. Entrarono 2 servitori, recanti ciascuno una coppia di secchi sciabordanti, l'uno di acqua fredda, l'altro di acqua bollente. Fecero il viavai diverse volte. Il truogolo si riempì. Lui ne provò la temperatura con la mano. Andava bene. Fece uscire i servi, si svestì, si immerse. Sotto la mole spropositata l'acqua fu sul punto di traboccare. Si insaponò, si strigliò. Il tepore gli faceva bene, lo rilassava. Stava quasi per addormentarsi quando si bussò alla porta. Domenico, il cameriere, entrò timoroso. «Padre Pirrone chiede di vedere subito Vostra Eccellenza. Aspetta qui accanto che Vostra Eccellenza esca dal bagno». Il principe fu sorpreso. Se era successo un guaio, era meglio conoscerlo subito. «Niente affatto, fatelo entrare adesso». Don Fabrizio si era allarmato della fretta del gesuita e un po' per questo, un po' per rispetto dell'abito sacerdotale, si affrettò a uscire dal bagno. Contava di poter mettersi l'accappatoio prima che padre Pirrone entrasse, ma ciò non gli riuscì. irritato per non aver fatto in tempo a coprirsi, rivolse naturalmente contro padre Perrone la propria stizza. «Sedetevi, padre, e ditemi perché volevate parlarmi così di furia». «Ecco, eccellenza, sono stato incaricato di una missione delicata. Una persona sommamente cara a voi ha voluto aprire a me il suo animo e affidarmi l'incarico di far conoscere i suoi sentimenti fiduciosa, forse a torto, che la stima della quale sono onorato». Le esitazioni di padre Perrone si stemperavano in frasi interminabili. Don Fabrizio perdette la pazienza. «Insomma, padre, di chi si tratta? Della principessa?» E col braccio alzato sembrava minacciare. Di fatto si asciugava un'ascella. «La principessa è stanca, dorme e non l'ho vista. Si tratta della signorina Concetta». Pausa. «Essa è innamorata». Un uomo di 45 anni può credersi ancora giovane fino al momento in cui si accorge di avere dei figli in età di amare. Il principe si sentì invecchiato di colpo. Dimenticò le miglia che percorreva cacciando, il Gesù Maria che sapeva provocare, la propria freschezza attuale al termine di un viaggio lungo e penoso. Di colpo vide se stesso come una persona canuta che accompagna uno stuolo di nipotini a cavallo alle capre di Villa Giulia. «E quella stupida perché è andata a raccontare queste cose a voi? Perché non è venuta da me?» Non chiese neppure di chi fosse innamorata Concetta. Era superfluo. «Vostra eccellenza cela troppo bene il cuore paterno sotto l'autorità del padrone. È naturale, allora, che quella povera figliola si intimorisca e ricorra al devoto ecclesiastico di casa». Don Fabrizio si infilava i lunghi mutandoni e si buffava. Prevedeva lunghi colloqui, lacrime, seccature senza limiti. Quella smorfiosa gli guastava il primo giorno a donna focata. «Capisco, padre, capisco. A casa mia non mi comprende nessuno. È la mia disgrazia. E che cosa dovrei dire io, secondo voi?» Il gesuita sudava nel calore da stufa e adesso che la confidenza era stata trasmessa avrebbe voluto andar via, ma il sentimento della propria responsabilità lo trattenne. Il desiderio di fondare una famiglia cristiana appare gratitissimo agli occhi della Chiesa. La presenza del Signore alle nozze di Cana... «Non divaghiamo! Io intendo parlare di questo matrimonio, non del matrimonio in generale. Tancredi ha fatto delle proposte precise e quando?» Durante 5 anni padre Pirrone aveva tentato di insegnare il latino al ragazzo. Durante 7 anni ne aveva subito le bizze e gli scherzi. Come tutti ne aveva sentito il fascino, ma i recenti atteggiamenti politici di Tancredi lo avevano offeso. Il vecchio affetto lottava in lui col nuovo rancore. Adesso non sapeva cosa dire. Proposte vere e proprie no, ma la signorina Concetta non ha dubbi. Le attenzioni, gli sguardi, le mezze parole di lui, tutte cose che divengono sempre più frequenti, hanno convinto quell'anima santa. Essa è sicura di essere amata, ma figlia rispettosa e ubbidiente, voleva chiedervi per mio mezzo che cosa dovrà rispondere quando queste proposte verranno. Essa sente che sono imminenti. Don Fabrizio fu un poco rassicurato. Da dove mai quella ragazzina avrebbe dovuto attingere un'esperienza che le permettesse di veder chiaro delle intenzioni di un giovanotto? E di un giovanotto come Tancredi, per di più. Si trattava probabilmente di semplici fantasie, di uno di quei sogni d'oro che sconvolgono i guanciali degli educandati. Il pericolo non era vicino. Pericolo. La parola gli risuonò in mente con tanta nettezza che se ne sorprese. Pericolo. Ma pericolo per chi? Thank you.